12. Zia Nancy continuava a dirle di trattenere il respiro. Appena Esther obbediva, una serva, nerboruta, tirava i lacci del busto, comprimeva le costole e intrappolava l'aria dentro la cassa toracica. Esther pensava di morire, ma il suo piccolo corpo riusciva a difendere uno spazio, quanto bastava per sopravvivere. «Fatto!» concluse la serva con un sorriso arcigno. La voltarono verso uno specchio appoggiato al muro. Esther guardò la dama in miniatura di fronte a sé. L'acconciatura sfiorava il bordo superiore della cornice, guarnita di spaghi dorati, nastri di velluto e strisce di merletto. I capelli stavano dritti sulla testa, come rami di una pianta su un graticcio, per ricadere in boccoli perfetti. A stento riconosceva il proprio viso. Uno strato di biacca l'aveva reso piatto, uniforme, una bambola di porcellana. Spiccavano le labbra vermiglie e l'ombretto sugli occhi. La gonna sfiorava il pavimento, tre strati di stoffa pesante e sotto mutande lunghe fino al ginocchio e calze di seta. Si chiese come avrebbe fatto a urinare. A causa del busto, i respiri erano corti e frequenti, aumentati dal batticuore, dovuto al panico di trovarsi prigioniera lì dentro. Zia Nancy le aveva spiegato che doveva fare una bella figura. Era una signorina ormai e l'occasione mondana richiedeva uno sforzo. L'avrebbe fatto per suo padre? Non voleva dargli un dispiacere, vero? No, Esther non voleva. Zia Nancy disse che dall'alto dei cieli sua madre sarebbe stata fiera di lei, vedendola così bella. Bella? Esther scrutò ancora nello specchio. Non avrebbe saputo dirlo. Provò a camminare. Si sentì goffa e lenta. Così conciata non avrebbe mai potuto correre, né accelerare il passo, tantomeno nascondersi dove non potessero trovarla. Poteva solo girare sul posto, come la miniatura del carillon che le aveva regalato suo padre il giorno prima. Una donnina piccolissima, che si muoveva a tempo, su un solco di legno. Esther si voltò verso le sorelline, sedute in un angolo. La guardavano stranite, come si guarda una persona che se ne va all'improvviso. Esther capì che si stavano separando, eppure non riuscì a dolersene. Così doveva essere. Doveva diventare una signora, imparare a ruotare sul posto. Poteva farlo. Usare la corazza che le avevano stretto addosso e stare al gioco. Tornò a guardare la superficie lucida dello specchio e sorrise a se stessa. Dal mondo rovesciato, quell'essere pallido arricciò un ghigno freddo. Sulla carrozza la fecero sedere accanto al padre. Di fronte a loro, Lord Warwick poggiava il fondoschiena sul bordo del sedile e le mani sul pomello del bastone. Accanto a lui, Joseph Brent le rivolse un vago sorriso. Esther osservava le ruote delle altre carrozze che correvano veloci. Sollevavano schizze di fango sui vestiti dei passanti e sui banchetti dei venditori. Giunsero a un ponte affollato dall'andirivieni di uomini e cose. Aveva visto un termitaio squarciato dai boscaioli una volta. Distolse subito il pensiero e respirò a fondo per trattenere un conato di vomito. Forse era il su e giù della carrozza, o forse le termiti che correvano nella testa. La voce di suo padre le giunse attutita dai rumori esterni e da quelli della vettura. «Lord Germain è incline a sostenere la nostra causa. Ha risposto alla mia lettera con sollecitudine, chiedendo di mettere per iscritto le questioni in sospeso». «Questa è una buona notizia», commentò il conte. «Germain è il ministro delle colonie più infido che abbiamo mai avuto, ma è l'unica persona che può risolvere i vostri problemi». L'attenzione di Esther fu attirata da una banda di ragazzini che aveva catturato e legato un cane e lo impalava come uno spiero d'arrosto. I guaiti erano strazianti. Altri, intanto, avevano legato tre gatti per la coda e li facevano roteare in un groviglio di artigli, soffi e miagolii. Rabbrividì mentre la vettura passava oltre. Poi la carrozza rallentò e si ritrovò a guardare un grasso signore su una portantina che quattro servi tenevano ben sollevata sulla mota della strada. La grossa testa sporgeva dall'abitacolo e gridava una serie di ingiurie in direzione di un'altra portantina che proveniva dalla direzione opposta. D'un tratto l'uomo smise di urlare, scorse la ragazzina e la fissò con disappunto. Lei tornò a volgersi all'interno. Suo padre e il conte non la smettevano di parlare. «Credete che avverrà presto?» intervenne Joseph Brent. «Certo, la presenza in città di Sua Altezza Joseph Brent sta facendo il dovuto scalpore. In fondo siete il principe di Kanayoharie. Non possono lasciarvi in anticamera troppo a lungo». L'indiano guardò il bastone da passeggio che teneva tra le ginocchia scuotendo la testa. «Io sono un capo guerriero. È un titolo guadagnato sul campo. Le mie origini non sono nobili, Lord Warwick. Come quelle di chiunque altro, disse il conte. Non è Dio ad assegnare i titoli nobiliari, ma la forza. Sistemò un filo della parrucca fuori posto. A ben guardare, l'origine della nobiltà inglese non è che lo stupro. Esther sentì il padre agitarsi sul sedile. La nausea stava passando, ma dovette abbandonare la testa sullo schienale e respirare a fondo. Capiva poco di quello che dicevano i grandi, ma poteva cogliere i loro stati d'animo. Il conte parlava con aria annoiata, come se tutto fosse ovvio. Molto tempo fa un'orda di villosi guerrieri francesi attraversò la Manica, conquistò queste terre ed esercitò il diritto dei vincitori sulle donne dell'isola. Poi spartì i titoli nobiliari che ancora oggi portiamo. Warwick agitò lezioso una mano. Ed eccoci qui, bastardi preoccupati di coltivare le buone maniere per far dimenticare le nostre origini. I lord inglesi guidano gli eserciti in battaglia, intervenne Joseph Brent. Il valore e il coraggio sono la vera fonte di nobiltà. Valore e coraggio, qualità apprezzate da un popolo come il vostro, che tiene ancora in conto antiche virtù. Con un altro gesto vago della mano, ma guardate qui fuori. Io non resisterei un giorno in queste strade, figuriamoci una notte. Questa gente ci trascorre l'intera vita, altro che coraggio. Ladri, guitti e mercanti sopravvivono a tutto e dovunque, come i topi. A Esther girava la testa. Immagini e parole suonavano vaghe e ovattate. Il viso di Warwick sembrava deforme, quello di Joseph Brent aveva tratti animaleschi. È la razza dalla fame insaziabile, che divora qualunque cosa. Pensate che il valore e il coraggio cambieranno il corso degli eventi? Sono concetti buoni per le allegorie dei pittori, ai quali chiediamo ritratti in armatura e alto uniforme. Un patetico tentativo di scacciare il pensiero che presto questa gente rosicchierà le nostre ossa. Suo padre parlò da una grande distanza. Eppure, milord, non potete negare che l'aristocrazia coltivi una qualche forma di eccellenza. In effetti ho riflettuto a lungo su cosa voglia dire essere aristocratico. Esther vide il conte estrarre una fiaschetta di metallo da sotto la giacca, svitarne il tappo e offrirla agli altri. Un cordiale? I due rifiutarono e Warwick tracannò un sorso abbondante per riprendere a parlare con lo stesso tono. Sono giunto alla conclusione che significhi avere qualcuno disposto a prendersi le colpe al posto nostro. Per comprovare questa teoria, l'altro giorno ho sonoramente scorreggiato in salotto, alla presenza di ben tre dei miei servi. Ebbene, non solo hanno fatto finta di non sentire, ma quando ho accusato con veemenza uno di loro, non ha battuto ciglio e si è lasciato infliggere la punizione con l'aria più contrita del mondo. Ecco, essere aristocratici significa agire nella piena impunità, a dispetto di ogni evidenza. Il conte alzò ancora la fiasca. «Viva Re Giorgio!» Bevve un secondo sorso. «Viva!» fecero eco gli altri due, senza entusiasmo.